la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16:30 primi e 38 secondi qui in diretta dagli studi della Solata, caldissima, troppo calda, Milano per i miei gusti, ma comunque invece a tutte le signore piace così, e no, è noto che tranne, grazie al cielo, dietro il vetro la tecnica grazie a cui andiamo in onda dice no, e quindi per fortuna almeno una. Detto tutto questo, grazie per l'ascolto in diretta o in podcast come sempre, l'indirizzo della versione di Oscar @radio24.it. Anche oggi la trasmissione nasce da due lettere che due ascoltatori ci hanno mandato sul tema, e questo è l'argomento della puntata, i voucher. Sapete che il governo un mese fa ha precipitosissimamente deciso di sposare integralmente le ragioni dei due quesiti che erano rimasti dei referendum su cui la CGIL aveva raccolto le firme. Il primo, quello su cui la CGIL naturalmente mirava al maggior traino popolare per fare il quorum, il referendum abrogativo ha bisogno del quorum, come sapete, cioè quello per l'abrogazione delle modifiche all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, era stato cassato dalla Corte Costituzionale perché la CGIL aveva, per così dire, esagerato, aveva deciso non di ripristinare il testo precedente, cioè del ripristino della reintegra giudiziale per le aziende sopra i 15 dipendenti, ma addirittura di farlo creativamente il quesito, cioè per quelle sopra i 5 dipendenti. Credo che siano morsi le dita, perché se avessero invece semplicemente fatto una norma abrogativa, oggi il governo avrebbe sposato a maggior ragione anche il ripristino dell'articolo 18 pre-riforma Jobs Act di Renzi. Ma non erano rimasti due. Uno di questi era il vincolo di solidarietà tra appaltante e subappaltante nei lavori pubblici per i contratti dei dipendenti. L'altro era appunto il voucher, lo strumento introdotto nella nostra legislazione negli anni 90, poi rivisitato di volta in volta praticamente sempre dalla sinistra e via via sempre più esteso fino a liberalizzarlo per tutti i settori negli anni, è diventato, secondo me impropriamente, una bandiera contro la quale si sono scatenati quelli della CGIL, dicendo è il segno e il simbolo della nuova precarietà, anche se i dati dell'INPS, quelli di cui disponevamo, ne abbiamo parlato molte volte, ci dicevano in realtà che non era così, cioè che a utilizzarlo erano davvero nel più dei casi pensionati, giovani senza lavoro, disoccupati, quindi che era uno strumento di lavoro accessorio, motivo per il quale era nato. Comunque è stato abrogato su due piedi, il governo ha fatto scrivere ai giornali che lo sostituirà con qualcos'altro, non si sa se con il lavoro intermittente che c'è già nel nostro ordinamento, ma la particolarità di costare non 10 euro l'ora ma 25 euro l'ora al committente. Vedremo, ma intanto che questa incertezza dura, perché vi ricordo che solo chi ha comprato i voucher precedenti all'entrata in vigore del decreto può utilizzarli entro fine anno, e non si sa quindi nel frattempo cosa fare, mentre questa incertezza permane ci hanno scritto molti ascoltatori parlandoci della loro esperienza e delle loro opinioni, e quindi oggi parliamo esattamente di questo, e cominciamo con il primo ascoltatore che ci racconta la sua storia. Gianmarco ci ha scritto dalla provincia di Reggio Emilia. Buon pomeriggio, grazie di averci scritto e grazie di essere qui con noi oggi pomeriggio. Ciao a tutti. Allora, iniziamo a descrivere. Tu vivi appunto in una piccola città della pianura padana, esatto, e hai una pizzeria. Sì, esatto. Come vanno le cose? Non molto bene, sinceramente. Gli affari, cioè, non è che mi vanno un granché, perché ho molte spese, la concorrenza comunque c'è, e insomma, purtroppo le cose non è che mi stiano andando tanto bene. Cioè, io guadagno veramente poco. Oltre a, insomma, il guadagno non è un granché in questo momento. E chi siete a lavorare in pizzeria? Allora, siamo io e mia moglie, però mia moglie lavora in una ditta, fa l'impiegata, e dopo il lavoro viene qui fino, non so, verso le 20:30 così, a fare qualche scontrino, a darmi una mano alla cassa, diciamo, mentre sì, io preparo le pizze. Sì. Ecco. E poi va a casa da vostra figlia. Esatto, e poi dopo va a casa da nostra figlia. Però il sabato e la domenica ovviamente chiamavo qualcuno con i voucher, una ragazza che era in quinta superiore, poi adesso si è diplomata, ma una ragazza in quinta superiore, o se no avevo anche un'altra donna che era in pensione. Quindi se non poteva venire una, veniva quell'altra. E diciamo, utilizzavi i voucher per complessivamente sabato e la domenica quante ore? 6 ore, non di più. Quindi 3 al sabato e 3 alla domenica, quando c'era il picco di lavoro maggiore. E come l'hai presa questa faccenda dell'abrogazione? Male, io l'ho presa molto male perché per me è cambiata un po' la vita, nel senso che mia moglie deve venire anche al sabato e quindi ha un giorno in meno per riposarsi. E la domenica purtroppo non è che io posso far venire mia moglie 7 giorni su 7, no? Allora chiamo ancora questa ragazza, la verità è questa, in nero, col cuore in gola, che venga un controllo. Se viene un controllo, qui sono multe salate, sono 5.000 euro di multe che partono. Io ho una società e sono 5.000. Io se mi danno 5.000 euro di multa, io fallisco. Io sarei messo male. Perché tu stai anche continuando a ripagare, tra le tante spese che hai, le rate alla banca ogni mese. Esatto, io ho fatto un prestito in banca, un prestito in banca, mi mancano ancora 5 rate fino a settembre e io devo tenere aperto, devo andare avanti per finire di pagare tutto, insomma. Quindi così. Naturalmente, siccome l'idea di chi ha proposto l'abrogazione, probabilmente mai più pensando che sarebbe stato accontentato con un decreto in tutto e per tutto dal governo, ma è andata così per evitare di avere tra i piedi il governo che infastidiva il PD, come è evidente, mentre il PD ha problemi interni a una scissione che è avvenuta a sinistra, il PD ha preferito non avere questo quesito. E detto tutto questo, però, chi l'ha proposto dice: caro Gianmarco, fai un contratto per le tue esigenze. Io lo farei anche il contratto, ma io non ho il fatturato per riuscirlo a fare, perché facciamo due conti, cioè proprio semplicemente, se io faccio già un contratto a chiamata, comunque non dà dei contributi, mi sembra, al lavoratore in questione, cioè a me costa sui 800 euro all'anno fra il lavoro del commercialista, l'autoliquidazione INAIL, il cedolino, eccetera, eccetera. IVA compresa. Se invece faccio un contratto part time, vado a spendere più di 5.000 euro all'anno, ok? Cioè io sono nelle condizioni di non riuscirci, cioè la mia pizzeria non va meglio se io faccio un contratto. Più o meno i ricavi sono quelli lì, il mio giro più o meno è quello lì. Poi si può discutere di migliorare i ricavi, però io non è che facendo un contratto migliori i ricavi, quindi per me è impossibile assumere. È impossibile, invece la comodità era appunto con i voucher, che può venire o una persona o l'altra se non ha tempo, essere in regola e comunque pagare il 25% di ogni 10 euro che è un voucher, essere in regola se si fa male, eccetera, eccetera. Quindi per me era lavorare tranquillo o lavorare come adesso, come un ladro, perché è questo che mi succede, perché deve stare in silenzio la ragazza di là con una porta aperta sul retro, che se io gli faccio un determinato segno deve scappare. Ma i ladri devono lavorare così? Io sto cercando di portare a casa la pagnotta. Non sono un ladro. Tu ci hai scritto testualmente: il lavoro accessorio con il voucher era uno strumento di legalità e di solidarietà. Per me sì, perché comunque io l'ho chiesto alla ragazza: ma te sei contenta di dover lavorare così, oppure che non ti chiamo al sabato, non ti chiamo più, oppure preferivi prendere i voucher? Ma chiaramente io preferivo prendere i voucher. Ho anche altri amici che hanno delle discoteche, cioè, oppure gli steward degli stadi, sono tutte delle cose che sono momentanee. Io non posso fare, se lavoro in discoteca che ho 10 persone da pagare, faccio 10 contratti, ma è impossibile. Non si può. Cioè, è un vuoto normativo, secondo me, allucinante, fatto dal venerdì sera al sabato mattina. Perché poi sui TG avevano detto: sì, dal 2018. No, dal 2018 la riscossione, ma l'emissione è stata interrotta dal venerdì al sabato. Cioè, uno scandalo. Per me è stato veramente, e nessuno che veramente abbia preso. Infatti, per questo io che le ho scritto a Giannino, perché io non. Volevo dirlo, cioè, ma nessuno che si indigni, ma è importante questo lavoro accessorio, secondo me. No, effettivamente la quantità di quanto erano diventati, ma ripeto, una quantità che però continuava, abbiamo sempre citato lo studio fatto dai due ricercatori dell'INPS, da Pietro Garibaldi e Anastasia, sul fatto che comunque la famosa crescita con milioni e milioni di voucher l'anno rispetto all'inizio, comunque riguardava una quantità complessiva di lavoratori che era limitata. Detto tutto questo, limitata sul totale degli occupati, ma detto tutto questo, nei settori a maggior utilizzo, appunto il turismo, il commercio, i servizi alla persona, sono quei tipi di settore in cui il voucher configura esattamente il tipo di utilizzo di cui ci sta parlando il nostro ascoltatore. Cioè, noi non stiamo parlando nei settori di maggior utilizzo dei voucher di imprese manifatturiere che improvvisamente si mettono a pagare decine di migliaia di dipendenti con i voucher. C'erano, sì, lo dico per confermarlo a chi mi sta chiedendo, degli evidenti segni di settore in cui valeva la pena di introdurre correttivi, ma di introdurre correttivi mirati, perché effettivamente nelle costruzioni l'eccesso di utilizzo del voucher faceva immaginare che in quel settore fossero davvero sostitutivi di rapporti che hanno una continuità tale da immaginare che fosse elusione rispetto all'obbligo contrattuale nelle diverse forme del contratto. Ma a questo fine era stata imboccata una strada dal governo precedente, cioè quella della piena tracciabilità elettronica, che nei primi mesi, di cui abbiamo i dati delle migliaia di ispezioni fatti dall'INPS, verificavano infatti in indagini mirate su quei settori, avevano portato all'emersione di situazioni ma individuate caso per caso di utilizzo improprio. Ma i settori, ripeto, nei quali i voucher venivano utilizzati per percentuale sul totale maggiore, di maggior rilievo, erano appunto il commercio, il turismo, i servizi alla persona, cioè esattamente la cosa di cui stiamo parlando qua. Io lo dico perché nelle reazioni dei nostri ascoltatori c'è classicamente una mela spaccata in due. C'è chi dice Gianmarco ha ragione, ma c'è anche chi dice no, è stata una misura di civiltà abolire il voucher. Di civiltà, io sarei curioso di capire chi dice che è civiltà, come risponde alla semplice elencazione di numeri di Gianmarco. Cioè, chi ce la fa a malapena con un esercizio commerciale che non sta andando benissimo, tra il pagare 2,5 euro su 10 di contributi, anche se quei contributi non configurano poi il diritto al NASPI, cioè al sostegno al reddito una volta perso. Ma perché non lo configurano? Perché è un rapporto appunto non continuativo e accessorio. Ma detto questo, tra quella ipotesi e il nulla, perché non è in condizione di fare un contratto per i bassi margini che ha, è meglio il nulla secondo voi? Ecco, è una banale domanda che vi faccio. Gianmarco, tu hai parlato anche con un consulente del lavoro, con il commercialista, con chi ti tiene i conti del come fare, perché ammettiamolo, essere esposti al lavoro nero, alla mega sanzione che se arriva non puoi dire nulla, non è esattamente una bella condizione. No, infatti, cioè, ha detto tu rischi, a tuo rischio e pericolo, sappi che comunque c'è questa sanzione, siccome che io ho una SNC, penso che siano 5.000, non 3.000 gli euro di multa, e tu stai rischiando, tu comunque un contratto devi fare, mi ha prefigurato comunque un contratto part time, neanche a chiamata, però se io non riesco a farlo, io davvero non ho altre strade, cioè davvero mi hanno messo in grandi difficoltà, sono molto triste che l'abbiano tirato via così, molto, perché non era giusto, non è stato giusto, perché davvero c'è, cioè, chi come me si è comprato un lavoro non è un vero e proprio imprenditore, cioè qua stiamo parlando veramente di microimpresa, io sono un lavoratore come tutti, mi mettono i bastoni tra le ruote in un momento così, mi sento veramente non rappresentato, defraudato di un diritto di lavorare onestamente. Ecco, proprio questo lo voglio dire. Allora, Non è giusto. io ringrazio Gianmarco, certo non è che dirlo cambi nulla, vedremo come il governo interverrà di fronte alla sua promessa. Io ripeto, il lavoro a intermittenza preesistente non veniva utilizzato perché, ripeto, ha un costo molto più elevato. Il problema del costo non è non volerlo corrispondere, il problema è che il costo lordo è molto più elevato. E quindi, cari ascoltatori, c'è chi non se lo può permettere, questo è il punto vero. E quindi grazie a Gianmarco intanto per averci raccontato questa storia. Adesso abbiamo un minuto di informazioni sul traffico e andiamo col secondo ascoltatore. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it col TH. Vi presenta. La versione di Oscar. Allora, risposte ad alcuni dei tanti vostri messaggi sul tema. No, non è una telefonata farlocca, e si è esposto anche a dei rischi il nostro ascoltatore, per niente. Ma ti pare che ci mettiamo a inventare le telefonate? Poi, per esempio, ci scrive, l'avevo visto questo, perché io a questo, per esempio, devo dare una risposta precisa. Perché veniamo a un'altra questione. Io come operatore sociosanitario venivo pagato euro 7,5 nette col voucher l'ora, sì, il voucher era così, per un lavoro sociosanitario qualificato. Era giusto? Stefano, io non sono in grado di dirlo. Se era un lavoro qualificato e continuativo, la risposta è no. E questo quindi configura uno dei casi per correggere i quali era stata introdotta la tracciabilità elettronica come premessa per acquisiti i dati, fare verifiche e poi introdurre dei limiti selettivi per settore. Questo era il percorso che era stato imboccato. Qui stiamo parlando invece dell'abolizione totale. Io non sto affatto escludendo che ci fossero stati degli abusi, ma i numeri studiati dall'INPS ci indicavano dove, e qui lo leviamo invece esattamente per tutti, cioè nei settori in cui lo strumento di lavoro accessorio sembrava proprio funzionare come lavoro accessorio. Ci sono tantissime. Sì, vi siete inventati copie del Sole 24 Ore online, figuriamoci se non vi inventate le telefonate. In questo caso vi prego, cambiate stazione radio però, perché a questo tipo di risposta, se pensate che noi siamo i falsificatori dei conti del Sole, non so che cosa dirvi, però è inutile perché perdiate tempo veramente, davvero. Lo dico per gli altri colleghi, ma lo dico per tutti. Che diavolo di modo di prendere è? Invece ci sono anche tantissimi messaggi che dicono, per esempio, questo ascoltatore: mio nipote lavorava a fine settimana in settore turistico a Bergamo, abolito il voucher, abolito il lavoro. Mia moglie da ripetizioni privati veniva pagata con i voucher, ora lavora in nero oppure deve aprire partita IVA, ma per 2000 euro l'anno non ne vale la pena, e così via. Ce ne sono più di quelli che credete, evidentemente. Niente di tutto questo è inventato, eh? Niente. Né stiamo spaccando la mela in due dicendo chi ha ragione e chi ha torto, però diamo anche voce a chi si trova in difficoltà, mentre prima era nella legalità. Tutto qui. Allora, il secondo ascoltatore si chiama Walter. Da dove ci chiama Walter? Dalla provincia di Viterbo. Buonasera a tutti. Lei che in che settore opera? E ristorazione, sono un ristoratore, un piccolo ristoratore. E che nel suo ristorante o pizzeria che sia, che utilizzo faceva dei voucher? Ma guardi, prevalentemente come Gianmarco nel weekend, perché ho due dipendenti regolari, il cuoco e la mia compagna che appunto fa da aiuto cuoco, io faccio da jolly, da cameriere, da pizzaiolo, da tutto ciò che bisogna fare per sopportare questi periodi di crisi che non sono teneri. E faceva ricorso più o meno nei momenti di picco, quindi fine settimana, sì. Di quante erano? Due o tre persone aggiuntive? Sì, erano due o tre persone al massimo, il sabato sera e un paio la domenica nel turno di pranzo. E mi sono trovato come Gianmarco dall'oggi al domani, il 18 mattina, ad andare a comprare i voucher e non erano più in vendita, contrariamente a quello che ci si era lasciato intendere dalle dichiarazioni dei politici. Ma nel vostro caso, alla domanda di un consulente o alla prospettazione da parte di un consulente, bisognerà che consideri l'ipotesi di aprire altri tipi di contratti. La sua risposta qual è? Guardi, purtroppo mi sono dovuto adeguare, anche se poi da redditometro risulta che io già con due dipendenti ne ho troppi. E quindi comunque ho dovuto far fronte, soprattutto in questi periodi di feste, all'assunzione con contratti intermittenti che per i costi, e come diceva lei, sono esagerati addirittura rispetto a quello che erano i voucher. È una cosa proprio, non stanno in cielo né in terra. Spieghiamo che quello che lei ha detto dà per scontato che l'ascoltatore lo capisca al volo, però lei deve capire che chi non è un autonomo soggetto ai più o meno 200 tipi di studi di settore prima e quindi poi tradotti col redditometro, significa che da quello che risulta l'amministrazione tributaria con due dipendenti lei ci sta già troppo stretto rispetto a dichiarato, cioè l'amministrazione tributaria presume di sapere davvero qual è il suo margine, immagina che lei non viva affatto col margine ristretto che ha, ma un margine molto più elevato, e quindi dice, è tutta una base presuntiva, perdonate, ma sulla base del reddito ovviamente, dell'imponibile e dell'imposta pagata, perché noi viviamo in un fisco di accertamento induttivi e presuntivi, poi ci sono quelli analitici fatti invece ovviamente con i controlli, sono di due tipi diversi, ma questi sono quelli di tipi, sono di tipo induttivo e presuntivo. E alla fine che cosa si risolverà di fare? E alla fine ho dovuto assumere, allora utilizzavo, perché erano saltuari ovviamente, circa 7-8 persone, due o tre le ho dovuto dire proprio mi dispiace ma dovete stare a casa, perché intanto per la stagione ne posso assumere 5, ma il mio problema sarà poi far fronte a fine stagione, che queste persone le dovrò mandare via tutte e dovrò che allegria lavorare. Anche per loro, perché naturalmente stiamo immaginando di persone per cui quei 50 euro al fine settimana gli servono, è in regola ovviamente, piuttosto certo, che studentesse, donne di casa che danno una mano ai mariti che sono in cassa integrazione. Allora, sentiamo che ci dice Federico, che ci chiama da Verona. Federico. Sì, buonasera. Buonasera. Io sono un po', ecco, allora, io capisco il problema di questi due ristoratori e tutto, però allo stesso tempo, come mia sorella, che sono 2 anni che lavora in un bar, ok, dal martedì alla domenica, ok, 8 ore al giorno, anche 12. In quel caso sicuramente non era lavoro accessorio. Ma la pagavano con i voucher? Un'ora di voucher, ok, e il resto a 7 euro all'ora in nero. Era una roba da denuncia, non c'è dubbio, ha ragione. Dunque, tu sei furbo, dunque ti tolgo i voucher, se hai bisogno assumi persone, perché erano 4 ragazze, non una. Federico, lei ha, stante i dati, perfettamente ragione, ma lei capisce che a quel punto per il furbo, e ce ne saranno stati tanti, io non lo so dire, per quel furbo lì ci vanno di mezzo gente che non ha i margini per regolarizzare. E come sempre, quello che dicevo io è che ci eravamo incamminati in una strada per distinguere, mentre così mettiamo nella prospettiva di dover diventare in nero anche quelli che in nero non ci vogliono lavorare, ma altrimenti devono chiudere perché non ce la possono fare, mentre invece chi ne ha approfittato alla fine troverà un altro modo, ma già era in nero e resterà in nero. Questa è la cosa, secondo me, che è un po' inaccettabile. Non sto difendendo nel suo caso, Federico, solidarietà assoluta per chi ha lavorato in quelle condizioni per così tanto tempo, solo che spaccando il 4 il capello non distinguiamo il capello buono da quello pittato. Tutto qui, è una discussione molto lunga, ma come vedete abbiamo tentato di dar voce a tutti. Continuate sulla 24, appuntamento con Alessandro Mina domani alle 8:20, attenti a noi due.